bellezza in fiora e là fuggevo, fuggevo la sireria voluta liviane i dolci freniti che giunci dall'amore poiché quell'occhio al cuore ogni possente va Scordo le gaudi suoi bollenti spiriti, il giovane ardore e la dentro del facile sorriso dell'amor, dal di che disse vivere io voglio a te fedela, sì, dell'universo in me io vivo quasi, io vivo quasi in cielo, io vivo in cielo. Io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in cielo. Annina, donde vieni? Da Parigi. Chi te il commise? Fu la mia signora. Perché? Vuoi fare che marrimpo che quanto il cuore possiede? Che mai sento? Lo spirito è grande a vivere qui solinghi. E facevi? Mi fu il silenzio imposto. Imposto? Or va bisogna? A Parigi. Or vanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora, il tutto manco a riparare ancora. Oh, sì, questo è davvero,

Oh, quasi del dolore. In me rinasce, magica, insolita di cuore. 9.68赫，欢迎收听。感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道，有线调频98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 欢迎继续收听歌舞剧场。刚才我们听到的是威尔第的歌剧《茶花女》当中的精彩选曲。下面让我们分享几首经典的芭蕾舞音乐，亚当的芭蕾舞剧《四魔鬼》当中的选曲，由理查德·布宁格指挥伦敦交响乐团演奏。 Thank you. 今天的歌舞剧场和你分享的是威尔第的歌剧《茶花女》以及亚当的芭蕾舞剧《四魔鬼》当中的精彩选曲。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.